Maestro, il concerto di questa sera, intitolato 1700, vorrei osare aggiungere un sottotitolo: Il concerto dei cervelli in fuga. Ah sì, ma noi siamo reduci da una registrazione intitolata 1700 che non corrisponde esattamente al programma di questa sera, perché stasera ci ha fatto piacere, come dire, ospitare Tommaso Rossi, che non è nella registrazione, ed è proprio una collezione di brani che è dedicata a tutti quei compositori italiani che per motivi di varia natura hanno deciso di espatriare e soprattutto hanno trovato successo all'estero. Quindi Mascitti, appunto, Mascitti a Parigi, Galuppi a Mosca e non solamente a Mosca e via dicendo. Era un periodo d'oro per l'Italia perché venivano tutti in Italia a imparare il mestiere e noi più bravi li mandavamo fuori, come succede oggi, insomma, anche. Un festival che è la sua terza edizione, cosa significa negli anni 2000, riportare il barocco in teatro? Beh, diciamo che per noi non è che sia proprio una novità, né per concerto italiano, né per me personalmente, e soprattutto neanche per moltissimi dei musicisti che quest'anno hanno calcato il palcoscenico del Rossini. Io credo di far parte probabilmente di una generazione uno, massimo due, oggi. Non so che numero di generazione siamo, e la musica antica in Italia ha rappresentato veramente una svolta culturale enorme, non solamente a vantaggio del repertorio della musica antica, ma come è successo in tutto il mondo, in Europa, ha aperto comunque anche alle porte allo studio, diciamo, filologico, per lo studio filologico dei repertori anche più tardi, Mozart, Beethoven, repertori ottocenteschi. Diciamo, siamo partiti da Bach e da Vivaldi e oggi approdiamo alle esecuzioni di opere di Verdi, di Wagner con cosiddetti strumenti originali, con strumenti d'epoca. Parrebbe una cosa, come dire, trascurabile, invece no, sono dettagli veramente che cambiano completamente il suono, cambia il diapason, cambia, e comunque sia cambia proprio lo stile, l'approccio alla partitura, alla lettura, si impara veramente, si riacquista una virginità intellettuale, si impara di nuovo a lasciarsi alle spalle un po' la tradizione, quando la tradizione vuol dire rifarlo come l'ha fatto quello prima di noi e a reinventare come dire, una sorta di primo momento, di primo contatto con la musica. Come si racconta la musica antica e barocca ai ragazzi dell'era della trap? Allora, non lo so, quello che posso dire, io non ho, anche se probabilmente mi piacerebbe, non ho attività divulgative. Diciamo il lato divulgativo è sicuramente insito nella scelta di alcuni programmi piuttosto che di altri, appunto nella proposta di un certo tipo di musica e anche nell'intento di rendere questa musica, diciamo, immediatamente fruibile. Poi, per caso o per fortuna, la musica antica è. Penso che sia l'unico veramente repertorio trasversale per quanto riguarda la musica classica, ma un po' da sempre, cioè ha interessato persone, diciamo, non più giovani, ma anche veramente giovanissimi. È il repertorio che, negli anni Ottanta ha totalmente rilanciato l'industria discografica e tutt'oggi ancora la musica antica, grazie anche al fatto che c'è tantissima musica inedita e interessante da registrare e da ascoltare, è ancora, diciamo, il filone che discograficamente tira di più. Poi dal punto di vista della divulgazione mille cose potrebbero essere fatte, però a cominciare insomma da una seria istruzione musicale e poi spiegare il perché la musica antica è una musica gradevole, può essere superficialmente gradevole e non c'è niente di male nella superficialità, ma anche molto profondamente gradevole, come la musica tedesca, la musica di Bach. E diciamo, il nostro impegno è un impegno un po' a 360 gradi e ripeto, il carattere, non voglio dire la qualità del nostro lavoro, ma sicuramente il carattere delle nostre esecuzioni, e parlo delle mie generazioni, è quello tale da voler appunto incollare alla sedia i giovani, i meno giovani e convincerli che possono scoprire veramente un mondo.